Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo settimo. La polizia conosce uno per uno, non dirò tutti gli affiliati delle cosche, ma per certo tutti i personaggi che in questi sodalizi hanno qualche importanza e si atteggiano a capi. E li conosce non già per i rapporti delle spie di mestiere, che quasi sempre sono poco attendibili, ma mercé le confidenze delle persone oneste di vario ceto che è facilissimo di procurarsi. Basta infatti che un delegato di pubblica sicurezza, un maresciallo ad un brigatiere dei carabinieri, sappia in una data località procacciarsi delle relazioni personali, che sappiano attirarsi la fiducia del pubblico, mostrandosi persone riservate che non compromettono gli amici, perché trovino subito chi fa loro la biografia veritiera dei mafiosi più in vista, dettagliando minutamente quale sia la vera origine dei loro guadagni. In queste indagini sono molto aiutati dai casellari giudiziari, perché i capi delle cosche, nell'inizio della loro carriera, hanno sempre subito qualche condanna o parecchie assoluzioni per insufficienza di indizi. Naturalmente le indagini riescono sempre più facili per i funzionari siciliani, che riconoscono il vario grado di mafiosità e l'esistenza di una cosca, si può dire, dall'odorato, anziché per quelli nativi dell'Alta Italia che qualche volta scelgono i loro mentori proprio fra i capi della cosca stessa. Però ho conosciuto anche funzionari dell'Alta Italia che, dopo una lunga dimora in Sicilia, avevano acquistato quell'olfatto speciale al quale ho accennato. I prefetti e i sottoprefetti, poi, se sono persone serie e discrete, ottengono facilmente dai signori tutte le informazioni che vogliono, purché queste siano richieste, come la si dice, da gentiluomo a gentiluomo e non nella qualità di pubblici funzionari. Ma in verità la conoscenza individuale delle persone capaci a delinquere, o meglio solita a comandare e dirigere gli strumenti materiali della delinquenza, giova poco in Sicilia per l'accertamento dei responsabili di un singolo reato. Se succede infatti un furto di bestiame, un taglio di viti, un assassinio per agguato, il danneggiato e la sua famiglia ed anche la polizia possono indovinare subito con precisione o pressa poco quale sia stata la mano che ha ispirato ed organizzato il delitto. Ma più difficile è il trovare gli esecutori materiali di esso, i quali spesso sono malfattori novizi che non hanno raggiunto ancora alcuna notorietà perché i capi delle cosche li lasciano sempre nell'ombra. È difficilissimo poi riesce di trovare gli anelli che riuniscono gli esecutori materiali con l'ispiratore del delitto stesso. Infatti, in tutti i reati commessi per mandato, il fondamento principale della prova giuridica contro il mandante sta nella confessione del mandatario. Or questa confessione i giovani che eseguiscono le decisioni criminose degli anziani delle cosche non fanno quasi mai, e non la fanno per educazione mafiosa, per la paura materiale della vendetta e perché confessando la loro carriera nella delinquenza sarebbe completamente rovinata senza poter sperare in ricambio l'impunità immediata e neppure una notevole diminuzione della pena comminata al reato commesso. Lo spirito di mafia, poi, induce spesso i danneggiati dei testimoni a tacere su tutto ciò che possono avere visto ed udito. E seppur si lasceranno indurre a fornire qualche lume alla giustizia durante il periodo istruttorio, quando sono testa a testa col magistrato inquirente, si ritratterranno al momento che sarà necessario deporre pubblicamente e solennemente davanti alla corte d'assise. Le autorità avrebbero certo le mani più libere nell'applicazione delle misure di polizia che possono venire inflitte ex informata coscienza e certamente il diniego dei permessi d'arme e la munizione di domicilio coatto, se opportunamente e coscienziosamente applicati, sarebbero strumenti assai efficaci per combattere le cosche mafiose. Disgraziatamente il loro uso in pratica spesso riesce incerto, parziale, saltuario, quindi inefficace per le intromissioni di alcuni potenti che coprono con la loro protezione i sodalizi dei malfattori e anche per i rapporti a base di compromessi e di transazioni che qualche volta esistono fra polizia e i detti sodalizi.